18. Minestra del paradiso. È una minestra sostanziosa e delicata, ma il paradiso, fosse pur quello di Maometto, non c'ha nulla che fare. Montate sode 4 chiare d'uovo e incorporateci dentro i rossi, poi versateci 4 cucchiaiate, non tanto colme di pan grattato fine di pane duro, altrettanto di parmigiano grattato e l'odore della noce moscata, mescolate ad agino, onde il composto resti soffice, e gettatelo nel brodo bollente a cucchiaini. Fatelo bollire per 7 od 8 minuti e servitelo. Questa dose potrà bastare per 6 persone.